Io azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, lettura, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, lettura, provocazioni, musica. Thank you. 013. Na 013 e riprendiamo da dove eravamo finiti. Faccio un breve riepilogo su quello che era successo nelle ultime letture. Questo che da oggi leggerò è la parte nuova, quella che poi andrà a finire il racconto. Na 013, eravamo rimasti che i Refractarios erano scesi dal Vesuvio dopo che una rivolta generale nelle strade di Na 013 era culminata con l'assalto al comune, con sindaco e assessori appesi alle aste delle bandiere, e i rivoltosi, dopo usciti dal comune, che si stavano dirigendo verso la torre M, che era presidiata dai Tarspok. Quindi ora si va avanti. Un addio e ritorno alle origini. Approfittando del nero manto stellato della sera che li rende invisibili, i quattro ribelli salutano Beppe e i rivoltosi che sono di guardia alle barricate e si incamminano verso il ponte sperando di trovare Valerie. Le strade sono buie perché i rivoltosi hanno distrutto l'impianto elettrico dei lampioni per muoversi tranquillamente da quartiere a quartiere. Tutte le sere gruppi di rivoltosi di quartieri diversi si vedono a turno in un quartiere per organizzarsi. Il buio pesto è spezzato solo dalle luci blu delle sirene poste sui blindati dei Tarspok, i quali ininterrottamente si muovono su e giù per le strade. Arnie, Ashlen, Mark ed Aki, prima di saltare le barricate e incamminarsi quasi curvati e radenti ai palazzi, aspettano che i blindati siano passati e diretti nella direzione opposta. I quattro Refractarios devono camminare per almeno 20 minuti prima di arrivare al ponte e fortunatamente non incontrano alcun pericolo strada facendo. Arrivati a 100 metri dal ponte iniziano a sentire urla, rumori, spari e sirene. Ad una cinquantina di metri si materializzano davanti ai loro occhi gli scontri tra Tarspok e la popolazione di quel quartiere. Gli uomini topo, che sono in pochi, stanno già avendo la peggio. Così i Refractarios, che per qualche minuto erano stati tentati dall'intervenire aggregandosi al popolo, pensano di continuare il loro cammino svoltando una stradina che circonda l'area degli scontri e si dirigono al tunnel dove hanno appuntamento anche con gli altri loro compagni. Prima di muoversi però danno un'ultima occhiata tra i rivoltosi per vedere se tra di loro ci fosse Valerie. Sembra filare tutto liscio per i quattro Refractarios, ma non è proprio così. Due Insect hanno notato il gruppo di ribelli e li stanno seguendo dai tetti già da un bel pezzo. Arnie, che conosce meglio la zona, guida il gruppo. Manca veramente pochissimo ai Refractarios per arrivare al tunnel e stanno camminando su una lunga strada ripida in salita, dove non ci sono case o altro tipo di terra che si apre nei lati. Il canto delle cicale sembra cadenzato dai passi dei Refractarios, che evitano di parlare per risparmiare il fiato. All'improvviso quel suono naturale è interrotto da un ronzio forte. Sembra un ronzio di api, vespe o qualcosa del genere, ma è strano perché di notte non sono in movimento questi insetti. Mark è preoccupato per il ronzio e chiede agli altri suoi compagni di fermarsi e non fare rumore. Mark sarà sicuramente un altro tipo di insetto che gli piace fare vita notturna, aggiunge Arnie. Può darsi, ma io non avevo mai sentito un ronzio del genere prima di ora. Può darsi che si sono rotte il cazzo di bere il miele e sono usciti a prendere una birretta, una vodka, non so. Aki prende in giro il suo amico in modo ironico. La solita testa di cazzo, pareva strano che non dicevi una cazzata delle due per così tanto tempo. Finiti dalla ragazza, riprendiamo il cammino. Ashlen riprende i suoi amici con un sorriso. Sì, ha ragione Ashlen, è già tardi, le parole di Arnie fanno eco a quelle della ragazza argentina. I quattro stanno per ripartire quando all'improvviso, nel buio illuminato solo dalle stelle, il ronzio diventa più forte. Due sagome staccate circa un metro da terra si materializzano davanti alla testa del gruppo. I due Insect attaccano i Refractarios prima che questi capiscano cosa hanno di fronte. Mark e Aki contemporaneamente arretrano di qualche passo trascinando per la felpa Shalene e salvandola da uno dei due Insect. Arnie è il primo ad essere stato attaccato e punto dal pungiglione enorme e velenoso, il Refractarios non è riuscito a salvarsi. Istintivamente tutti e tre i Refractarios aprono il fuoco contro i due Insect che restano stecchiti a terra. I ragazzi sono terrorizzati perché erano abituati a Tarspok, ma non avevano mai visto un insect. Pezzi di merda, ti giuro che darò fuoco ai vostri alveari appena ne avrò modo. Mark prende per il gomito Aki e lo tira a sé. Sono morti, non ti sentono. Subito dopo sputa addosso ad uno dei due insect, poi abbraccia Aki ed Ashlyn. Ora adagiamo Arnie da qualche parte e ricopriamolo con qualsiasi cosa, in modo che queste merde non trovano il suo cadavere. Ashlyn è sotto shock e chiede ai due suoi amici se possono fare loro da soli questa operazione, perché lei non ce la fa a seppellire il suo amico. Arnie, che tra l'altro è stato uno dei primissimi punti di riferimento per la ragazza argentina da quando si era trasferita a Napoli, a Na03, dici. Ashlyn, tranquillo, ci pensiamo noi. Con una carezza sul viso bagnata dalle lacrime alla ragazza, Mark cerca di calmarla. Insieme ad Aki prendono il corpo senza vita del loro amico e lo adagiano tra alcuni ruoli. Poi tracciano un segno a terra, prendono un sasso dalla forma particolare e lo poggiano ai bordi della strada, a pochi metri da Alni, per tornare a prendere il suo cadavere e dargli una sepoltura. Radiazione, 15 settembre 2014, si riprende dopo la pausa estiva. Non siamo andati in vacanza, abbiamo preso pausa dalla cameretta per far prendere un po' d'aria pulita, l'aria viziata, cambiare l'aria e sporcarla di nuovo durante l'anno. Quindi si inizia subito con un lunedì, e quindi con le letture, la controinformazione, le letture di libri, ovviamente la musica. Si è appena letto la parte nuova di Nazero 13, che spero di far uscire per fine ottobre. A breve sì, uscirà però, completo di musiche. Musiche e il racconto, e sarà benefit per i compagni detenuti. Allora, e sarà ben accetto portarlo in giro per l'Italia, e non solo per l'Italia. Chiamiamo l'Italia. È un po' pericoloso portare radiazione in giro per l'Italia. Non è che siamo così tanto amati, però comunque a chi farà piacere, noi possiamo esserci. Anche per presentare anche il progetto di radiazione, cioè il racconto è il racconto, le musiche sono musiche, quindi più che altro una presentazione del progetto di radiazione. Allora, dicevo, lunedì, come tutti i lunedì da due anni a questa parte, non ci sarà solo controinformazione e la musica, ovviamente, ma soprattutto ci saranno le letture. Come l'anno scorso abbiamo finito con I Sabotatori di Edward Debbie, quest'anno si riprende alla grande, perché è uno dei miei libri preferiti, uno dei nostri amatissimi, Sergio Spiasecki, il libro Nessuno ci salva, che molti conosceranno, alcuni non lo conoscono, ma io consiglio di andarlo a leggere oltre ad ascoltarlo su Radiazione. Ricordo anche di iniziare a pensare sui futuri libri, suggerirci. Chi vuole suggerire un libro nuovo da leggere dopo Nessuno ci salva, lo può fare scrivendo alla mail di Radiazione. Ora diamo gli indirizzi, e quindi sapete pure qual è la mail di Radiazione: radiazione@autistici.org, e là potete mandare sia i consigli sui libri, che fino ad ora non sono arrivati in due anni mai arrivato, quindi li continuiamo a scegliere noi, una cosa che ci rende più sicuri, perché andiamo su velluto sui libri, crediamo che abbiamo fatto buone scelte. E poi potete mandare anche notizie di controinformazione, materiale che volete diffondere attraverso il sito di Radiazione gratuitamente, come giornali, opuscoli, cd, qualsiasi tipo di materiale. Seguire un po' le linee che sono state indicate sul sito con un post recente, in modo tale che si evitano. Sì, il post recente è stato, per l'appunto, ricordo Marcello, è stato indicato bene o male il materiale che non ci interessa. Tutto il resto interessa. Io penso di aver ricordato tutto e riassemblato tutto quello che non poteva interessare. Quindi, vabbè, date un occhio al post e fatevi un'idea. Il sito di Radiazione è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata. In quest'ultimo mese si è aggiornato pochissimo, ma non perché si era in vacanza, no, sono sempre stato qua nella cameretta senza aria viziata, perché c'aveva le finestre spalancate. Però effettivamente non c'era tante cose interessanti. Quello che era più interessante si è cercato di divulgarlo. Sul sito di Radiazione potete anche riascoltare le dirette d'azione attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione. Là ci sono tutti i podcast, ci sono documentari audio, alcuni fatti pure da Marcello, altri documentari tipo Intervista alla Cruz Negra Anarchista, che è un compagno italiano trasferito in Messico, ci ha fatto avere, con tanto di traduzione, insomma, un po' di materiale. Poi c'è la pagina download dove potete scaricarvi opuscoli, manifesti, cd, tutto quello che viene messo a disposizione e spedito a Radiazione. La radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che ringraziamo ovviamente sempre, oggi è la prima puntata, quindi un ringraziamento doppio. Che dire? Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cast Product con il brano Never Come Back, e poi dopo si parte subito con Nessuno ci salva, Sergius Piasecki. convention. Never come back, never come back. A product, an image, invention of the business. Identify yourself to be a perfect mistress. A model to follow, a video on the screen. You can love the world and every day is Halloween. You have the room to harm, the charms of guru cried. Never come back, never come back. They molded you a character in such a pretty kisser. Never come back, never come back. A product, an image, invention of the business. L'alba della vita di Alessandro Baran fu buia, tetra, fredda e amara. Sua madre, Anghia Baran, aveva lavorato da ragazza come donna di servizio presso la famiglia assai numerosa di un agiato funzionario russo. Non sapeva far nulla di particolare e non aveva attribuzioni ben definite, aiutava semplicemente i membri della famiglia in tutte le loro necessità. Apparteneva a quella categoria di persone la cui presenza non viene nemmeno notata e che la gente, lungi dall'apprezzare, considera piuttosto fastidiosa e inutile. Questo, sempre che non le capitasse di rompere un piatto, perché in tal caso, un fattaccio del genere, era ritenuto un vero e proprio attentato al benessere della famiglia e tutti maltrattavano Anghia e spesso le infliggevano delle punizioni assolutamente immeritate, ma se la ragazza fosse venuta improvvisamente a mancare si sarebbero accorti che il carbone non veniva da solo dalla cantina, né la legna dal solaio, né l'acqua dal pozzo che era in cortile. Il suo alloggio si trovava al terzo piano dello stabile. E oltre a ciò si sarebbero resi conto che era Anghia a portar via la spazzatura, a scopare le stanze, a rifare i letti, a pulire le scarpe e i vestiti, a lavare i piatti e le stoviglie, a vestire i rampolli più piccoli, a fare un salto, così come si dice, 100 volte al giorno dal droghiere o dal macellaio e ad adempiere ad un'infinità di altre piccole mansioni. Dalla mattina alla sera, la ragazza correva su e giù per le scale di servizio nell'enorme tetro fabbricato, risalendo di solito con grossi carichi quei gradini che sarebbero diventati il suo incubo e la sua croce se essa, guidata forse dall'istinto di conservazione, non se ne fosse fatta un gioco. Dapprima correndo giù senza pesi e con le braccia libere, saltava solo pochi gradini per volta, poi a poco raggiunse una tal maestria che riusciva a percorrere in due salti ogni rampa di scala. Balzava dal pianerottolo con la testa in avanti, sfiorando appena con la palma la ringhiera, tanto per mantenere l'equilibrio e la direzione, e atterrava a mezza scala su un piede e, facendo un altro salto, irrompeva sul pianerottolo sottostante. Girava fulmineamente la curva e di nuovo in due balzi si trovava sulla curva successiva e così precipitava giù di piano in piano come un lampo, rossa in viso, con gli occhi accesi, e si sentiva quasi felice. Sapeva anche scivolare sui gradini che avevano i buchi di metallo, sfiorandoli appena coi tacchi ad una tale velocità che le sembrava di pattinare sul ghiaccio e si sentiva mozzare il respiro. Quanto più Anya veniva malmenata, tanto più veloci e irruenti erano le sue evoluzioni giù per le scale. Quando un ingiusto castigo le faceva sentire più duramente la sua condizione, si buttava giù così all'impazzata che si meravigliava lei stessa di trovarsi incolume in cortile. Erano dei suicidi immaginari suoi che, per uno strano fenomeno, la aiutavano a ritrovare il suo equilibrio spirituale, a dimenticare la sua mortificante esistenza e il suo senso di giustizia offeso. Uno degli inquilini, che varie volte aveva notato le agili evoluzioni di Anya, l'aveva soprannominata Scoiattolo, e ben presto questo nomignolo venne adottato da tutti. Il vero nome della ragazza venne dimenticato, Anya scomparve e rimase lo Scoiattolo, ma la sorte della fanciulla non migliorò affatto per questo. Ogni anno la famiglia del funzionario aumentava e di conseguenza aumentava anche il carico di lavoro che veniva addossato sulle spalle di Anya. «Dov'è lo scoiattolo? Questo è un lavoro per lo scoiattolo! Chiamami subito lo scoiattolo!» E così Anya doveva affaccendarsi con sempre maggior lena per le strade oscure dell'alloggio e spiccare salti sempre più acrobatici su e giù per le scale di servizio. Nel suo desiderio di svagarsi, Anya trovò un alto divertimento nel pulire le scarpe a tutta la famiglia. Essa adempiva questo ufficio con la massima cura, con metodo e, si potrebbe dire, quasi con solennità. Si dedicava a questa occupazione alla mattina presto, quando tutti gli inquilini del fabbricato dormivano ancora e la scala era silenziosa e ancora immersa nel buio. Anya si sedeva all'ultimo gradino del pianerottolo del terzo piano, disponeva intorno a sé le scarpe di ogni tipo e grandezza e iniziava il suo lavoro. Puliva le scarpe senza fretta, con diligenza, quasi con piacere. Prima toglieva il fango e il sudiciume con una spazzola dura, poi stendeva il lucido, poi, dopo molte altre manipolazioni, rimirava soddisfatta la fila di scarpe disposte secondo la misura che si parevano emanare luce sulla scala. Anya aveva un cuore sensibile e perciò faceva un eguale trattamento a tutte le scarpe, sebbene avesse delle buone ragioni per nutrire del rancore, anzi dell'odio, contro i proprietari di alcune di esse, mentre verso altre, sempre le scarpe, aveva una simpatia pari a quella che sentiva per i loro padroni. Infine vi erano le scarpe che la lasciavano del tutto indifferente. Se qualcuno si fosse trovato in simili momenti vicino ad Anya, avrebbe potuto udirle pronunziare discorsi assai strani. «Ah, e tu, discolaccia, hai rotto ancora la stringa, ma che cosa credi? Che io abbia una fabbrica di stringhe, forse? Ma guarda un po', adesso dovrei andare a rubare per te», ammoniva Anya, rivolgendosi alla scarpa della padrona e adottando lo stile bisletico di quella. «Oh, cara, ti si è allentato l'elastico, ora te lo metto a posto, così va bene, no?» diceva poi con garbo alla pantofola della figlia maggiore, considerata dagli altri alquanto lunatica, ma che si mostrava sempre gentile con lei. Per ultimo Anya puliva le proprie scarpe, ma mentre attendeva con gran cura e soddisfazione a quest'ultima fatica, il suo visino, di solito così sereno e sorridente, si rannuvolava. Sapeva che tra poco avrebbero brillato in modo meraviglioso, ma che lei stessa avrebbe dovuto togliere loro un po' di quello splendore. Era una cosa che faceva molto malincuore da quando la padrona, avendole visto le scarpe lucide, l'aveva apostrofata: «Tu, farabutta canaglia, Ehi, adesso capisco dove va a finire tutto quel lucido e non faccio a tempo a comprarlo, che è bello che è andato. Sei tu che lo sprechi così per far brillare quelle luride scarpacce. Ma guarda che contessina, che non ti peschi un'altra volta, altrimenti. E da quel giorno Anja, prima di entrare in casa, si inumidiva con l'alito il palmo della mano e poi lo passava per due o tre volte sulle scarpe per renderle opache. Ma quando usciva di nuovo per fare un salto da qualche fornitore, strofinava con cura le scarpe con l'orlo della gonnella finché ritornavano lucide. Quando calava la sera e il lavoro era finito, Anja per l'ultima volta scendeva di corsa le scale nella luce incerta del crepuscolo, un piano più in basso del solito, nello scantinato, dove abitava una sua zia, unica parente protettrice. Questa protezione era consistita, quando Anja era ancora molto piccola, nelle botte che prendeva di continuo nel restare spesso senza cena e nell'essere sottoposta a lavori sproporzionati alla sua età. Quando la fanciulla compì 9 anni, la zia la mandò a servizio dietro il compenso dell'alloggio, del vitto e di una misera paga che lei stessa ritirava nella casa del funzionario. Oltre a ciò, la ragazza doveva andare ad aiutare la zia nel suo lavoro di lavandaia. Insomma, Anja non aveva mai un momento per sé. Solo nei suoi sogni viveva la sua vita, solo allora aveva una volontà propria e poteva fare ciò che più le piaceva. La scala, anche nei sogni, giocava un ruolo importante. Talvolta le appariva così chiara e linda che era una gioia percorrerla in su e in giù. Dall'altra si ergeva davanti a lei così ripida e buia che sembrava non avesse mai fine. Sì, poi incominciava a salirla, cadeva, rotolando fino in basso, e si svegliava di soprassalto, ansante, col cuore in tumulto. Spesso le capitava anche di sognare scarpe stivaletti, una quantità enorme. Si comportavano come esseri animati, passeggiavano, chiacchieravano, danzavano, persino Anja si trastullava con loro come con creature vive, come con bambole. Non aveva mai posseduto, erano sogni questi che le davano molta gioia. Ma poi veniva l'alba e la mano ossuta e fredda della zia strappava con violenza la fanciulla dal paese incantato delle sue visioni. Al suono delle sgridate si vestiva in fretta e furia e fuggiva dallo scantinato per iniziare le sue corse su e giù per la scala e la lunga serie delle faccende che doveva sbrigare nella giornata. Passarono gli anni e la macilenta bambina divenne una fanciulla sedicenne, una piccola donna in erba. Ma agli occhi del vicinato, Anja continuò a essere una creatura senza sesso, uno scoiattolo che da anni non aveva altro compito che quello di correre su e giù per le scale del fabbricato. Anja stessa non si era resa conto di essere cresciuta. Il grigiore e la monotonia della sua vita avevano attutito i passi del tempo. E perciò non si meravigliava affatto di essere trattata ancora come una bambina. Ora, invece, che era una ragazza robusta, forte, slanciata, si sarebbe anche potuto dire che era carina se non avesse avuto quegli zigomi sporgenti tipici della ragazza mongolica. Tuttavia, i suoi occhi obliqui e scuri e il nasino all'insù, assieme alla graziosa figurina, non avrebbero certo sfigurato se Anja fosse stata una ragazza elegante, ben vestita e ben pettinata, una ragazza del bel mondo, insomma. Avrebbero anzi costituito un'attrattiva tutta sua. Ma quegli occhi non potevano fare il miracolo di rendere da soli attraente una ragazza sciatta, sempre spaurita e indaffarata, coperta di logore vesti che una volta erano appartenute, sì, una volta, alle sue padroncine. Il fascino della sua giovinezza e della sua intelligenza non comune scompariva agli occhi della gente, sopraffatto dalla sua timidezza e dalla sua goffaggine di serva bistrattata. Non accadeva mai che Anja avesse ragione. Non faceva in tempo ad aprir bocca, secondo l'opinione degli astanti, senza dire qualche stupidaggine, e imparò dunque a tacere, sempre e ovunque. Si rinchiuse in se stessa e solo raramente sulle sue labbra apparve un sorriso. E così si vendicava dei suoi tiranni, di tutto il male che le avevano fatto e che continuavano a farle. Quel sorriso era la sua unica vendetta, la vendetta di una creatura umiliata e impotente. L'esistenza che conduceva Anghia sarebbe, forse, durata così ancora a lungo se non fosse improvvisamente accaduto un fatto nuovo che ebbe un influsso decisivo sulle vicende ulteriori della sua vita. La storia è banale, ma non si tratta più soltanto dello scoiattolo. Negli abbaini della stessa casa abitavano tre studenti che avevano affittato in comune un'ampia soffitta. Anghia li aveva incontrati molte volte sulle scale, coi libri o le cartelle sotto il braccio, e nutriva un grande rispetto per quegli uomini di scienza. Un giorno, 2 anni prima, era accaduto che, mentre Anghia portava su per le scale un secchio d'acqua, una mano sconosciuta le aveva afferrato il manico e le aveva tolto il secchio di mano. Meravigliata, la ragazza aveva alzato gli occhi e aveva visto un berretto goliardico e sotto di esso un paio d'occhi ridenti e vivaci. Lo studente aveva portato il secchio fino al terzo piano e poi aveva continuato a salire le scale verso il suo abbaino. Anghia si era accorta che soffiava molto più di lei mentre saliva col secchio e aveva pensato spesso all'aiuto che le era stato dato. We believe that Britain will be the next country to give fascism a chance. Fascism a chance. E questi erano Fatal Morgana con il brano Lifeblood, dopo la prima lettura di oggi e dell'anno del nuovo libro Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Ora si passa, come di consueto, alla controinformazione. Si va in Inghilterra, a Filton Bristol, dove è stata attaccata la Bay Elms Development Center. Allora, rivendicazione, leggiamo il testo di rivendicazione. Rivendicazione della FAI, Sacco e Vanzetti, circolo di propaganda per la vita e per l'azione di un attacco incendiario contro Bay Arms Development Center nel contesto del vertice NATO in Gran Bretagna. Nel contesto del vertice NATO a Newport, una cellula della Federazione Anarchica Informale ha colpito Bay System a Filton Bristol. Abbiamo messo in atto il nostro attacco contro Bay System, fabbrica di armi a Filton, area di Bristol, appiccando il fuoco contro un serbatoio di carburante fuori dal sito Advanced Technology Center, sezione Impact Facility, High Power Electromagnetic Facility, il 29 di agosto. Oggi annunciamo questo attacco nel contesto della programmazione del vertice NATO a Newport fra 5 giorni. Ovviamente c'è stato già il vertice. L'Inghilterra abbonda di strutture industriali e militari tutto l'anno e ognuno può trarre le sue conclusioni. Bay System è probabilmente la più grande multinazionale della cosiddetta difesa ed è il più grande datore di lavoro dell'Inghilterra. Alcuni dei suoi più grandi progetti sono solo con la British Armed Forces, sono i jet aerei NATO Eurofighter e i sottomarini nucleari. Dall'artiglieria ai droni aerei, equipaggiati con speciali sistemi di comunicazione, agli F-16 bombardieri fighter dell'Israeli Air Force e le catene usate sui prigionieri a Guantanamo Bay. Potete trovare Bay System in giro per il mondo dietro conquiste imperialiste, la morte o la riduzione in povertà di milioni di persone. La compagnia adesso ha rami dedicati all'intelligence anticrimine e investigazione che si occupa delle minacce cibernetiche o dell'industria bancaria. È stata posta sotto contratto dall'Unione Europea per concepire un sistema chiamato Strategic Crime and Immigration Information Management System, essenzialmente un database internazionale di polizia. Sono poi in prima linea per trarre profitto dalla gestione della transizione tra analitica e analisi di locazioni fisiche o l'analisi di individui e delle loro interazioni per il rafforzamento della legge e delle agenzie di intelligence. La fabbrica dove abbiamo colpito produce armamenti che includono le fregate navali e veicoli da combattimento e ci sono centinaia di impiegati nell'Advanced Technology Center nel disegno di armamenti all'avanguardia per il mercato globale. Solo alcune delle loro specialità sono l'individuazione dei comportamenti anomali e analisi video, tecnologie bio-ispirate, micro e nanotecnologia e materiali intelligenti, tecnologie per operazioni celate e sicure. Bay System è l'avanguardia della robotica militare, così come delle ultime innovazioni, apparecchi di copertura per carri armati e armature corporali liquido derivati per far diventare le moderne macchine mortali di carne e sangue, ancora più agili e mortali. Per vedere un segno del futuro che ci stanno preparando, guardate i loro veicoli armati da terra autonomi della supervisione umana, come quelli che controllano le zone di confine Israele-Gaza e Israele-Libano, o le piccole macchine da terra o subacquee modellate sugli insetti per ricognizioni audio-video. La compagnia fa esplicito riferimento all'area di conflitto asimmetrico e l'incrocio fra l'uso dei loro prodotti sul campo di battaglia e l'uso massiccio all'interno della società. Un comune fenomeno del settore. Un caso per illustrare ciò è il visore notturno ad alto potenziale di Bay System, che trova il suo impiego nel mercato della sorveglianza civile e progetto in avanzamento della creazione di prigioni a cielo aperto, dai centri urbani o a ovunque è necessario proteggere il sistema e le sue merci. Dobbiamo scrivere altro per dimostrare come lo sviluppo tecnologico sotto la struttura del potere civilizzato ci sta guidando ad un desolato paesaggio automatizzato e una vicina dominazione totale e di potenziale annientamento Era una domanda, l'ho letta. Era lunga come domanda, quindi. L'ora è tarda, il nuovo coraggioso mondo con la sua amplificata domanda di sottomissione sarà il prezzo per la nostra indifferenza. Agire dove loro pensavano fosse il terreno sicuro è ciò che abbiamo deciso per ripagarli del tipo di affari che la Bay System ha scelto. Con questo attacco siamo solidali con gli imprigionati nella strada verso l'anarchia. Gianluca Iacovacci, Adriano Antonacci, Marco Camenis, Nicola Gai e Alfredo Cospito. Ogni anno che trascorrono dentro le azioni distruttive si moltiplicheranno. Onore anche ai combattenti dei giorni andati che hanno camminato armati contro la dominazione e il suo crimine. Fai, Zac e Vanzetti, circolo di propaganda per la vita e per l'azione. 23 e 30 agosto, settimana globale di solidarietà con i prigionieri anarchici. Il testo è stato tradotto dai compagni della Croce Nera Anarchica Italiana. Io all'inizio avevo messo un breve cappelletto all'articolo perché ho evitato di divulgare questa settimana di solidarietà nei confronti dei detenuti, dei compagni detenuti, perché il testo faceva un po' pena, si parlava di rivendicazione di diritti umani, del diritto a essere prigionieri politico, cosa che i compagni detenuti e molti di loro, quelli italiani almeno, li conosco, questo diritto non è, cioè non ci passa neanche per la testa, non gli passa nemmeno per la testa, così penso come tanti altri compagni detenuti in giro per il mondo. Quindi prima di organizzare le solite iniziative di solidarietà con certi punti, sarebbe buono scrivere ai compagni detenuti e chiedere: è il caso o non è il caso? Questo è tutto. Questa era la notizia di Controinformazione. Ora passiamo a un brano prima di tornare alla lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Il brano è di Rabbit Junk ed ha per titolo The Struggle. E da quel giorno in cui incontrò lo studente e ricevette il suo aiuto erano passati adesso 2 anni. Un pomeriggio di primavera lo studente rientrò in casa di buon umore, ridendo. E quell'allegria era dovuta al fatto che la sua dichiarazione d'amore e la richiesta di matrimonio che aveva fatto alla sua ragazza del cuore erano state favorevolmente accolte. Già da tempo egli faceva la corte a Alchka, che non solo era carina, ma aveva anche una bella dote, cosa che aveva contribuito non poco ad accendere e ad alimentare la sua passione. Ora egli si sentiva all'apice dei suoi sogni e vedeva davanti a sé un meraviglioso avvenire. Lo studente, senza affrettarsi, incominciò a salire le scale fischiettando un'aria della bella Elena, e in quel momento Anya, ritta sul davanzale di una finestra, lavava i vetri sul pianerottolo tra il secondo e il terzo piano. La sua attenzione venne attirata da un uomo che entrava nel cortile con un organetto a spalla, e subito per tutto il casamento risuonarono le note rauche e singhiozzanti di un vecchio valzer per Anya. Questo era un diversivo non indifferente ed essa ascoltava, sporgendosi sempre più sul davanzale, e la canzone che lo squassato strumento sprigionava con la sua voce nasale e costipata. Giunto sul pianerotto, lo studente scorse Anya sul davanzale e il suo primo sentimento fu la paura di vederla cadere nel vuoto, ma subito i suoi occhi si fermarono sulle gambe formose della fanciulla che il vento, scherzando con la gonnella corta, scopriva ben sopra il ginocchio. Lo studente sapeva dipingere assai bene, anzi, un tempo aveva avuto l'intenzione di dedicarsi alle belle arti, ma poi il senso pratico aveva preso il sopravvento ed egli aveva finito per dare ai suoi studi un indirizzo più solido. Gambe di Anya gli parvero bellissime e, quel che più contava, parlavano un provocante linguaggio sensuale. Lui le paragonò senza volerlo alle gambe di Alchka, gambe che aveva visto tante volte ma sempre inguainate nelle calze di seta, e a ogni modo non gli erano mai svelate così completamente. Sì, le gambe di Anya invece erano veramente attraenti, mentre quelle della sua fidanzata erano belle, sì, ma un po' freddine e alquanto comuni. Queste gambe che invece aveva davanti a sé avevano una loro particolare espressione, un calore e una vita loro propria. Chi avrebbe mai pensato che quella mocciosa fosse così ben fatta? L'ho vista tante volte, ma finora non aveva mai attirato la mia attenzione, pensò tra sé sì, lo studente. Fece qualche passo in avanti, il suono dell'organetto si interruppe e Anya, sentendo dietro di sé uno scalpiccio di passi, si voltò di scatto. Vide un volto illuminato da un sorriso e due occhi bramosi che scivolavano lungo il suo corpo. In un attimo comprese tutto ciò cui aveva udito parlare tante volte. Ne aveva sentite e viste tante, ma fino a quel momento le erano sembrate cose strane, irreali. Ora invece era lei stessa che si imbatteva in quella cosa. Con rapida mossa tirò giù la gonnella e col viso in fiamme si irrigidì sul davanzale, incapace di fare un movimento qualsiasi. Lo studente si tolse con fare scherzoso il berretto. I miei ossequi, bella signorina, ma chi avrebbe mai supposto, salendo le scale, di imbattersi in una simile ninfetta? Ho avuto paura di vedervi cadere e, francamente, sarebbe stato un vero peccato. Neppure al balletto ho visto un paio di gambe come queste, parola d'onore. Anya rimase sul davanzale con un vago sorriso sulle labbra. Lo studente diede un rapido sguardo intorno, poi, afferrata con ambo le mani la vita sottile di Anya, le depose delicatamente a terra. Oh, questa bimba potrebbe uccidersi cadendo dalla finestra. Ecco, qui sei al sicuro. Le riversò la testa indietro e le scoccò un bacio sulla bocca. Dal basso si udì un pesante rumore di passi che salivano. Lo studente abbandonò la street e lasciò la ragazza, che rimase lì intontita, e però poi alla fine le disse: dunque, attenzione, la finestra è alta, non bisogna cercarla le disgrazie, mi raccomando. E continuò a salire le scale e disparve alla volta del pianerottolo. Agna sedette sul davanzale e scoppiò a piangere. Non che quel bacio le fosse dispiaciuto, ma le lacrime le venivano lo stesso, così, senza nessuna ragione. Forse piangeva di vergogna, forse di gioia. Non avrebbe saputo dirlo, tanto erano confusi i sentimenti che la sconvolgevano. Il bacio dello studente fece una profonda impressione, sì, su Agna. Continuava a pensarci e a rievocare ogni parola che le era stata detta là su quelle scale. La donna si era risvegliata in lei. Il senso segreto di quell'interesse per le sue gambe a poco le divenne chiaro. Certo, lo studente le aveva guardate in modo strano e ne aveva parlato con ammirazione varie volte. Approfittando del fatto che non c'era nessuno sulle scale, Angia aveva sollevato la gonnella e, chinandosi indietro e sui fianchi, aveva esaminato attentamente i suoi polpacci, le caviglie e i piedi, e non aveva scorto nulla di eccezionale. Ah, se avessi un paio di calze, pensò, non poter più liberarsi da questa idea che la perseguitava continuamente. Non comprendeva che era stata proprio la nudità delle sue gambe ad attirare l'attenzione dello studente e a renderle così affascinante ai suoi occhi. Alcuni giorni dopo l'incontro sulla scala, Angia, tornando dal lavoro, si rivolse alla zia che stava spremendo i panni bagnati e ponendoli un po' di mastello. Zia, mi compri un paio di calze. Che cosa? Che cosa? Con in mano un capo di biancheria attorcigliato, la vecchia fissò due occhi stupiti sulla ragazza. Voglio un paio di calze, devi comprarmene. Ripeté Angia. Magari qualcos'altro, no? Ripeté la zia con un tono di scherno, avanzando minacciosa verso la nipote. No, nient'altro, solo le calze. Ah, solo questo, squaltrina. Angia non rispose, non comprendeva il significato di quella parola, ma invece continuò a ripetere ostinatamente: comprami un paio di calze. E allora la vecchia decise di domare la nipote come aveva fatto fino a pochi anni prima, spesso senza ragione. Ma stavolta Angia le strappò di mano con tale forza l'asciugamano ritorto che la zia aveva brandito per sferrarle il colpo, che invece questa poi finalmente indietreggiò stupita. Oh, è così che sei diventata. Ti farò vedere io, ti insegnerò io ad avere un po' di gratitudine per chi ti ha fatto del bene e si è sacrificata tanto per allevarti. Comprami un paio di calze, zia, continuò a ripetere Angia, e tale fu la sua insistenza che il miracolo si compì. La vecchia le comperò un autentico paio di calze. Nonostante il suo scarso comprendono, questa volta capì che avrebbe finito per perdere la nipote e di conseguenza la fonte di guadagno che essa rappresentava se si fosse impuntata a rifiutarle quel dono. Anche lo studente aveva qualche volta pensato ad Angia e, cosa strana, questo gli era successo quando si era trovato con la sua fidanzata, mentre guardava la sua dolce, la sua unica, la sua adorata Alsechka, purtroppo inaccessibile fino al momento in cui sarebbe diventata sua moglie. Gli balenava davanti agli occhi la visione dell'appetitosa ragazza ritta sul davanzale di una finestra del fabbricato dove lui viveva. E qualcosa quindi nel suo intimo gli diceva che era una fanciulla ingenua, inesperta, che avrebbe ceduto facilmente non appena egli avesse steso la mano su di lei. Un giorno tornò a casa più eccitato del solito. Achka, la fidanzata, era stata così tenera quando gli aveva dato dei baci, così ardenti, gli aveva stretto varie volte la mano in modo così significativo, ma poi, nonostante gli avesse supplicata e scongiurata, aveva troncato con fermezza ogni suo slancio. Devi mostrarti forte, paziente, padrone di te stesso. Vedrai che dopo ti sembrerà più bello, gli aveva detto con le subdole moine di una ragazza che la sa lunga, sì, su certe cose. E quindi, dopo aver salito alcune rampe di scala, lo studente si fermò su un pianerottolo e, sedutosi sul davanzale, accese la sigaretta. I Il suo scopo era di attendere Anghia, ma non voleva confessarselo. Diverse persone discesero e salirono le scale senza badargli. Stava ottimando la seconda sigaretta quando improvvisamente udì lo scatto. Sì, lo scatto di una serratura. Era la porta dell'appartamento dove lavorava Anghia, al piano di sopra. Lui si alzò e si nascose dietro lo spigolo del muro. La ragazza scendeva di corsa come al solito e si trovò faccia a faccia con lo studente che apparve d'improvviso davanti a lei. Oh! Mi scusi, balbettò Anghia mentre le guance le si imporporavano e fece l'atto di scostarsi, ma egli la trattenne. Oh, sono contento di averla incontrata, signorina Anghia, disse allegramente prendendola per un braccio e accarezzandole il volto con l'altra mano. Voleva dirle qualcosa che le può interessare, sa, ma non ora. Esca stasera alle 9 sulla scala e mi aspetti su negli abbaini, va bene? Le dirò quella cosa a cui ho accennato, verrà, è vero? Oh sì, mormorò Anghia, e quando lo studente le lasciò il braccio si precipitò giù come un fulmine mentre lo studente le gridava dietro ancora una volta. Si ricordi, sì, alle 9. Giorno Anghia si sentì le ali e i piedi, non camminava, volava addirittura su e giù per le scale in preda ad un groviglio di pensieri e di sentimenti di cui non riusciva a trovare il bandolo. A volte le pareva che la giornata si trascinasse con la lentezza di una lumaca e col desiderio. Affrettava il calar della sera, a volte pensava con terrore che presto sarebbe venuto il crepuscolo e che poco dopo avrebbe dovuto recarsi al convegno. Non le passò neppure per la mente che avrebbe potuto non andarci affatto. Non aveva forse detto di sì? E come poteva venir meno alla sua parola data? E la paura e la gioia si contendevano il suo cuore, lasciandola come un bolide su e giù per le scale. E fu un miracolo che queste folli scorazzate non finissero con qualche pericoloso capitombolo. Anghia sembrava protetta dalla sua stessa incoscienza. Era felice che quel giovane così colto, così intelligente, si fosse accorto della sua esistenza, della sua piccola esistenza di stupida ragazza malvestita. Ma meno male che ho le calze, ci saranno certamente piaciute, e anche il nuovo nastro azzurro nei capelli. Tremava al pensiero che egli potesse accorgersi di quanto ella fosse sciocca e magari la deridesse, ma questi pensieri non duravano a lungo. Appena le si affacciavano alla mente, subito svanivano. La preghiera dello studente le era suonata come un comando. Non si era mai dato il caso in cui Anghia si fosse rifiutata di obbedire a qualcuno. E finalmente giunse sera. Approfittando della penombra crepuscolare, Anghia sgusciò nella stanza delle figlie maggiori della padrona e versò su un pezzetto di carta un po' di cipria che le signorine tenevano in una scatoletta. Poi si nascose nel seno un involtino. Per la prima volta in vita sua aveva rubato. Terminate le ultime faccende della giornata, uscì di casa e sedette silenziosa e calma sul davanzale della finestra, seguendo un oscuro istinto. Non si recò per prima al convegno. Attese che venisse a cercarla lo studente. Si era incipriato il viso, chissà perché, dato che egli non avrebbe potuto accorgersene, lassù negli abbaini faceva quasi buio e solo gli occhi che vi erano abituati potevano distinguere quindi qualche cosa. Dopo un quarto d'ora udì il cigolio di una porta che si apriva, poi un rumore di passi. Rimase in ascolto col cuore che le martellava nel petto. I passi si arrestarono sul pianerottolo dell'ultimo piano e dopo un po' Anghia li udì allontanarsi piano e risalire cautamente le scale. Rimase alcuni secondi col fiato sospeso, poi balzò a terra e si mise a salire le scale di corsa, ma senza fare il minimo rumore, saltando 2-3 gradini per volta la scala. All'ultimo pianerottolo si divideva in due scalette che conducevano agli abbaini. Quando Anghia raggiunse l'ultimo scalino, si sentì afferrare tra due braccia forti e impazienti. Gattina mia, ti sei fatta attendere! E non riuscì a rispondere nulla perché la sua bocca rimase chiusa sotto una valanga di baci e quel bisbiglio d'uomo era così strano, così eccitato, e quelle mani così, così audaci e così prepotenti. Thank you. these milky lips, we're kissing violence. On these loving tongues, we burn up kings. Hey, no fucking cheek. I'm gonna drive the knife through your stink of deceit before you get a chance to... Your sharp intellect with crippling silence slip between the sheets, stealthy compliance. Stand up, line sticks. Two trees down, two suits from wars. Man, break, concentrate. I'll give you fucking stars. Shadow, whisper, breaking, chalice, burning, candle, blackens, malice, costing, circles, weeping, callous. Don't get mad, rooting, pinning, terrible, jealous. Get even, first, light a fire, next, wicked speak, burn, singe the hair, vex, seal with spit, first, light a fire, next, wicked speak, burn, singe the hair, vex, seal with spit. Regret with protective shell, gently drag you down through this dirty hell. Full of frailty, growing desperate to insanity. Pivot flesh on a plate. Questi erano Angel Spit con il brano Get Even. Ora si ripassa alla controinformazione, controinformazione che va in Messico, dove c'è una lettera del compagno Carlos Lopez Chivo. Ricordo che Carlos è rinchiuso da gennaio, dopo fu arrestato insieme ad Amelia e Fallon dopo una manifestazione, accusati di vari attacchi incendiari. Allora, la lettera più che una lettera è un testo di Carlos, che ha per titolo Quello che stagna marcisce. Per chi ha deciso passare dalla parola all'agire insurrezionale e ha deciso portarlo in tutti gli ambiti della vita laddove sia necessario, diviene prioritario l'entrare in continua riflessione e così ripianificare un'altra e ancora un'altra volta i propri pensieri, strumenti e strategie di lotta. Questo per non ricadere in dinamiche passive che risultano sterili e controproducenti all'ora dell'attacco. Da lì la nostra necessità di riprendere temi importanti che, non considerandoli come qualcosa di immobile, dobbiamo sempre mettere a dibattito e in discussione. E per questo mi do il compito, a titolo personale e in maniera umile, di ripensare ciò che intendo per informalità e anarco-insurrezionalismo, brevemente con le intenzioni di coinvolgere chi si possa sentire identificato dal proprio posto a poter contribuire a dare maggior profondità e dibattito. Allo stesso tempo fare una piccola critica a quelle correnti anarchiche che si sono impegnate a trattarci come piromani senza idee. In giro per il mondo si continuano a generare conflitti e tensioni da parte di compagni anarchici contro il complesso apparato di dominazione, che non smettono di ispirare a chi siamo nella stessa lotta, cercando di estendere e generalizzare il conflitto in una modalità di attacco decisivo e distruttivo. Lo sforzo dei e delle compagne che decidono mettere in pratica i propri progetti basati sulla coerenza di teoria pratica e pratica teoria, intendendo che si completano l'un con l'altra, deve essere preso in considerazione, non lasciandolo nel dimenticatoio e mettendolo a dibattito e in discussione in maniera critico-costruttiva, cercando di apprendere dai risultati e dagli errori per poi passare al campo di battaglia, la guerra sociale. Se sentite un rumore ogni tanto in sottofondo, il ventilatore, perché qui fa caldo. Fa troppo caldo, troppo. Continuiamo il testo di Carlos. Questo per mettere in chiaro che lo scontro contro tutti i prigionieri e l'autorità non è un'idea da pazzi e fuori di testa, ma una reale e palpabile forma di cercare in maniera definitiva la nostra totale e definitiva libertà. Diciamo che per noi l'anarchia non è un'ideologia, una lotta che si basa su idee fisse che ci dicono come agire, bensì una forma di concepire la vita e viverla d'accordo con le nostre tesi, analisi e critiche sorte nella riflessione delle lotte che riflettono la nostra realtà e che sempre sta cercando nuovi metodi, strategie e forme d'attacco. Per questo ci rivendichiamo anarchici insurrezionalisti e organizzati secondo una logica informale. Intendendo l'insurrezionalismo come un'azione che nasce dall'individualità, come la rottura che ognuno porta dentro di sé, trasformando quello che lo circonda, partendo dal nucleo familiare, sociale e politico che molte volte ci mantiene in questa prigione società, dalla quale non è tanto facile uscire. Così trascendiamo il conflitto. Se c'è qualcosa che dà identità alla lotta insurrezionalista è precisamente portarla più in là dell'illusione e la parola, di prendere iniziativa nel conflitto di classe e rompere con l'attitudine passiva della resistenza per passare all'attacco, senza limitarsi all'attesa di una rappresaglia per poi avere una giustificazione per attaccare. Invece farlo già, qui ed ora. Il conflitto permanente ce lo portiamo nel nostro andare quotidiano, nelle nostre teste e nei nostri cuori, cercando di espanderlo ai quartieri, rioni, villaggi e più in là, per arrivare ad organizzarsi mediante nuclei di base insieme ad altre persone non anarchiche che portano avanti forti battaglie, per esempio per frenare progetti governativi che mettono a rischio il loro benessere o le loro vite. È importante non situare la lotta insurrezionalista in una struttura minima di organizzazione specifica, perché va più in là della clandestinità, come ho spiegato anteriormente. Anche se questa lotta non è nulla di nuovo, è certo che si è rinnovata. Potremmo citare alcune lotte di contadini e indigeni che si sono ribellati con dignità contro latifondisti e terratenenti. In un altro contesto storico, e per questo prendo come riferimento lotte presente più che metodi da seguire, è necessario smettere di ricordare solo combattimenti passati dimenticati qui e ora, che dobbiamo metterle in pratica. intendendo l'informalità della struttura organizzativa dell'anarco-insurrezionalista come insurrezionalismo, come la relazione più o meno stabile di persone, gruppi e movimenti che si mantengono in un avvicinamento costante, creando di approfondire quello che si è appreso nelle lotte, senza strutture burocratiche o deleghe di responsabilità e rifiutando possibili organigrammi che diano spazio a relazioni di potere. Qui, diciamo, entra in gioco quell'aspetto di cui gli Insu tanto parliamo e che difendiamo, che consiste nel costante ridefinimento e riaggiustamento delle forme e metodi usati per portare nel campo di battaglia l'attacco distruttivo. L'informalità non è qualcosa di statico, ed è in costante ristrutturazione, non dimentichiamo mai quello che stagna marcisce, al contrario non sarebbe informale. Sono i gruppi d'affinità che, ispirati a questa forma organizzativa, si riuniscono generalmente in piccoli gruppi, avvicinati da una conoscenza personale mutua. Per generare affinità è anche importante lo studio e la critica delle problematiche sociali, non solo le lotte parziali, ed anche i dibattiti portati al punto più profondo per comprendere fin dalle radici quello contro cui ci confrontiamo. E soprattutto è lo stesso sentire distruttivo verso tutto l'esistente che ci fa sentire l'affinità. Arrivando così alla complicità, affinità e amicizia non sono la stessa cosa, anche se possono andare per mano o separate, vale a dire essere affini senza essere amici e viceversa. È così che tali gruppi si fortificano e si sa su chi si può contare al momento di passare alla pratica. Questi piccoli gruppi sono destinati a scomparire una volta raggiunto l'obiettivo per il quale erano stati creati e a sorgere altri nuovi, riprendendo quello detto prima, quello che stagna marcisce. Anche l'unione di diversi gruppi d'affinità fa parte di questa forma organizzativa informale. Fino a qui arriva questo piccolo apporto con l'idea, come già detto, che si approfondisce. Ora mi occupo di fare una piccola critica a quei gruppi, piattaforme o federazioni o a alcuni compagni insurrezionalisti su una forma di agire che reputo sia importante mettere in risalto e che non condivido. Anche se l'anarchia è contro ogni forma di struttura e relazione di potere, quello comunemente conosciuto come sistema di dominazione, esistono anche all'interno dello stesso movimento correnti che discreditano in maniera velenosa l'azione di coloro che vanno più in là della semplice parola e decidono uscire dalla montagna passività che si portano dentro. Correnti che si difanno grandi predicando che le cose dovrebbero essere di questa o quella maniera, come grandi teorici da bar, così senza nulla di più. Da tempo ha cominciato a sentire un certo rifiuto nell'accettare tali dottrine anarchiche, dove si parla appassionatamente di cercare di emanciparsi da ogni imposizione, di formare relazioni di fratellanza e amore orizzontale fra uguali, quasi partendo da un idealismo cristiano che recitano lo slogan di sradicare la malvagità dal mondo, però senza far nulla più di riunirsi per parlare e continuare ad idealizzare la prospettiva di una vita in libertà, però dimenticando o lasciando di lato che questa vita è in mano ad un poderoso nemico che è necessario attaccare in maniera permanente e distruttiva. Da sole le rabbiose e ingenue idee e teorie non servono a molto. Considero la propaganda e la controinformazione come qualcosa di importante, ma non quando si utilizza solamente per muovere le masse, e soprattutto se questo muovere porta implicitamente con sé l'attesa del momento ideale per lanciare l'offensiva, come quelli che aspettano il loro messia, e in questa attesa ci sarà da dedicarsi a far proselitismo per ingrossare le proprie file e cadere in posizioni quantitative. Quindi, non essendo d'accordo con quello che decidono mettere in pratica l'attacco diretto, senza aspettare la mediazione dello Stato e capitale, decidono in solidariamente di silenziare quelle lotte e le loro conseguenze, facendo finta che qui non succede nulla e continuando con i loro discorsi e indottrinamenti popolosi, come chi tira le pecore verso il proprio ovile. Penso che per mezzo di manifestazioni, incontri, presidi e discorsi sull'anarchia, congressi, grandi e pompose recite della libertà da sole non muteranno e nemmeno distruggeranno il nemico che dicono di combattere. Termino questo scritto che, se è vero che sono solo molte cose già dette, sono anche cose che ho vissuto e riflettuto da vicino, lasciando alla critica e al dibattito chi lo crede conveniente. Per ultima cosa, non voglio lasciarmi sfuggire l'occasione di mandare un caloroso e fraternale abbraccio a tutta la mia solidarietà ai compagni e compagni Nikos Matsiotis incarcerato in Grecia, Paula Rupa in fuga, Monica Caballero e Francisco Solari in Spagna, Felicity Rider in fuga, Freddy, Juan e Marcello in Cile, molta forza alla compagna Tamara Sol, Mario Tripa in fuga, Gianluca Iacovacci e Adriano Antonacci in Italia, Gabriel Pombo da Silva e in Messico, Mario González, Abraham, Fernando Faglion e Amalie. A tutti loro e a tutti quelli di cui non so, il mio amore, rabbia e solidarietà. Irriducibili e refrattari per essere sempre per sempre, perché la lotta non è per ottenere dei privilegi né un futuro comodo, ma invece è una condizione, atto che cerca di distruggere ogni formazione di dominazione, così per risorgere dalle rovine e finalmente essere liberi. Carlos López Chivo, reclusorio Oriente, Messico, Città del Messico, Messico DF, Città del Messico praticamente. E questa era la lunga lettera, il lungo scritto di Carlos dal Messico, che ha voluto dire la sua, approfondire su certe tematiche. Ben accette le nuove idee, anche se su qualche passaggio io non mi ci ritrovo, però ci si può ragionare. Allora, ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono 64 Rivolto, il brano è Next Generation, per ricollegarci al testo di Mario Lopez, e poi dopo si torna qui con il continuo della lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. passò la primavera, poi l'estate e passò anche l'interesse che lo studente aveva dimostrato per Anya. Lo avevano infastidito la sua muta devozione di cane fedele e la sua adorazione sconfinata e ardente. Anya, invece, portava dentro di sé l'amore come un grande tesoro. Era diventata più seria, più graziosa e il suo corpo si era sviluppato. Qualcosa di nuovo le ingentiliva i tratti del volto e tutti gli uomini adesso si voltavano a guardarla quando passava. Anya non era un amante esigente, non chiedeva nulla e cercava persino di indovinare i pensieri del suo dio. Ogni desiderio o capriccio di lui era per lei una legge. Allo studente non era mai venuto in mente quanto fosse difficile per Anya scappare di casa per recarsi ai convegni che egli le fissava e quanto questi fossero pericolosi per lei e potessero procurarle un'infinità di guai. Non si immaginava neppure quali sacrifici ella dovesse fare per comprarsi delle calze nuove, qualche capo di biancheria, un vestitino, un po' di cipria. Quante umiliazioni, quanti dispiaceri, quante lacrime aveva versato Anya. Eppure ella a nessun costo avrebbe rinunziato al suo amore, né si era lagnata con lui di nulla. Strano. Da quando era divenuta la madre dello studente che si faceva chiamare da lei Riccardo, ma non era il suo vero nome, ed egli stesso soggiungeva in cuor suo conquistatore di cuori, Anya aveva smesso di scorazzare per le scale e non rivolgeva più esortazioni o rimproveri alle scarpe mentre le puliva. Ma venne un giorno in cui lo studente fece i suoi bagagli e traslocò altrove. La sera prima aveva avvertito Anya dicendole però che sarebbe andato presso i suoi genitori e che sarebbe ritornato in autunno. E si fece promettere dalla fanciulla che non si sarebbe lasciata struggere dalla malinconia e promise di scriverle indirizzando le lettere di un'amichetta di lei che faceva la donna di servizio presso una famiglia del secondo piano. Al momento del distacco, Anya, per la prima volta, esplose in carezze così appassionate che il suo amante ne rimase stupito. Forse presentiva di essergli vicina per l'ultima volta. «Tesoro, tesoro, ritornerai!» mormorava. «Ma sì, ma certo che ritornerò!» rispose con impazienza lo studente perché era atteso da Alcica e cercò quindi di affrettare il congedo, ma non tornò. Non tornò e non scrisse. Sparì! Sì, sparì dalla vita di Anya, così come vi era comparso d'improvviso, ma lasciando dietro di sé spezzato il cuore di una povera e inerme creatura. Invano Anya attese fremente la posta, invano attese il ritorno di Riccardo. Avrebbe voluto chiedere notizie ai compagni di lui, ma temeva che egli se ne adombrasse venendolo a sapere al suo ritorno. E poi anche quelli un bel giorno lasciarono la soffitta. E dopo qualche tempo, chiaramente, Anya si accorse di essere incinta e ne rimase atterrita. Le parve di non riuscire più ad afferrare la realtà, tanto che era stranita e fuori di sé. Ma poi ricominciarono le folli corse su e giù per la scala, che stavolta non erano se non disperati tentativi di distrarre la sua mente da quel pensiero che l'ossessionava. E col tempo anche la zia si rese conto dello stato in cui si trovava e la investì di pugni, gridando: «Cagna! Cagna schifosa! Chi è stato? Parla!» Ma la ragazza non si lasciò sfuggire nemmeno una parola sul suo Riccardo. Non l'avrebbe fatto neanche se l'avessero sottoposta alla tortura, perché era certa che egli non sarebbe stato contento della sua confessione. Ma la zia era fuori di sé dal furore. La gravidanza di Anya l'avrebbe senz'altro privata ad un certo momento e chissà per quanto tempo del peculio che la giovane continuava a passarle e garantirle. Ebbene, quando Anya dovette lasciare il servizio presso la famiglia del funzionario, dato lo stato avanzato della sua gravidanza, tutti ne compresero il motivo, ma nessuno ebbe per lei un po' di comprensione. Al contrario, tutti le si scagliarono contro, chiamandola donnaccia e anche sgualdrina. E la sua padrona disse: Ho sempre detto che era una vipera. Quante volte ho ammonito le mie figliole di non darle confidenza. Me ne intendo io di simili madonnine infilzate. A me un bel musino non fa nessuna impressione. Appena l'ho visto, subito capito di che stoffa era. Evidentemente si dimenticava di aver visto Anghia per la prima volta quando aveva 9 anni. E meno male che non mi ha svaligiato la casa, non è fuggita col suo amante. Continuò con voce irritata. E il merito è mio, esclusivamente mio, ma a me non la si fa tanto facilmente. Tuttavia l'indomani non ci fu chi non s'accorgesse della mancanza di Anghia. C'erano un'infinità di cose da fare, ma nessuno voleva occuparsene. Ci fu la costruzione obbligatoria di tutte le riserve. Le due figli maggiori, le due più giovani e perfino i maschi ai quali non spuntava ancora la barba. La padrona dovette abbandonare la lettura di romanzi francesi e con la testa avvolta in un fazzoletto si mise a fare i mestieri di casa sua. Tutti si misero di lena al lavoro. Chi andò a prendere la legna per la stufa, chi l'acqua, chi portò via le immondizie, chi servì in tavola, chi lavò i piatti e le stoviglie, chi riordinò le stanze e chi, infine, vestì e diede da mangiare ai piccoli. Ma alla sera si constatò che, nonostante tutti fossero sì sfiancati dal lavoro, questo non era stato affatto ultimato. E allora la madre si mise a gridare con la cuoca che non voleva fare se non quello che le toccava e anzi esigeva un aiuto, e questa minacciò di piantare tutto in asso. E allora la padrona, dovette capitolare. 2 giorni dopo apparve in cucina una specie di sguattera che venne messa subito al lavoro, ma si rivelò subito di una tale sventatezza che la famiglia tutta fu d'accordo nell'accusarla di sabotaggio. I piatti andavano in cocci a decine, la più bella lampada fu trovata in terra frantumi, ma quello che colmò la misura fu il modo addirittura incomprensibile con cui riuscì a far cadere uno specchio attaccato alla parete che naturalmente andò in 1000 pezzi, e così, senza tanti complimenti, la sguattera venne scaraventata fuori di casa. E quella che le succedette pareva invece che avesse la malattia della nonna. Non si lasciava sfuggire la minima occasione per appisolarsi. E pochi giorni dopo il suo arrivo scomparve e, dopo lunghe ricerche, venne trovata in cantina dove era scesa a prendere le patate. Dormiva a pugni chiusi, seduta sul secchio capovolto. Il giorno seguente lo passò dormendo in solaio e quindi anch'essa venne licenziata su 2 piedi. La terza ragazza si mostrò dapprima piena di vitalità e di energia, e la signora ne fu felicissima. «Oh, finalmente!» disse. «Ho un aiuto decente!» Ma la sua gioia non durò a lungo. Si notò che sulla scala, sul portone, persino nella strada vi era un continuo andirivieni di militari di tutte le armi. E tutti cercavano di indovinare la ragione di questa novità. «Avranno aperto una caserma da queste parti», suppose qualcuno, ma invece ben presto ci si accorse che i militari si spingevano sempre più in su sulla scala, dandosi infine convegno sul pianerottolo del terzo piano dietro la porta della casa dove aveva servito Anghia e dove ora serviva una ragazza tanto energica quanto frivola. Andò a finire che 2 presunti fidanzati vennero alle mani nella cucina stessa dell'appartamento, contendendosi a suon di botte il cuore di quella Dulcinea, chissà. Di questo fatto bellico ebbero a soffrire soprattutto le pentole, il vasellame, i piatti, e così anche la terza serva fu scacciata di casa. «Via, fuori, la mia casa non è mica una caserma, figurarsi, via!» Fu sostituita da una ragazza che invece aveva un debole per i pompieri. È un temperamento ancora più ardente di quella che l'aveva preceduta. La gente dapprima si spaventò credendo che si sviluppasse un incendio in qualche parte della casa, ma non ci volle molto per accorgersi che quei cavalieri dell'ordine della salamandra aspiravano solo al cuore, ma al cuore davvero, della nuova serva. Via, anche questa. La padrona di casa allora si torceva le mani disperata. «Oh, povera me, che cosa devo fare adesso? Peccato che Anghia se ne sia andata. Quella sì che era una ragazza d'oro, tranquilla, laboriosa, gentile. Vero che ha commesso un errore, ma era anche così giovane e inesperta. che brava figliola, però è coscienziosa per giunta. Ma dove trovarne un'altra simile? Solo allora il lavoro di Anghia fu apprezzato come si meritava, e quando dopo il parto la ragazza si rimise in forze, la zia, che si era già accordata con l'ex padrona di Anghia sia per il lavoro sia per la paga, ordinò alla nipote di ritornare a servizio presso la famiglia del funzionario. Anghia non fece alcuna obiezione e riprese il lavoro silenziosa e calma come una volta. Si sarebbe detto che ora lavorava ancor più di Lena, e così la casa ritornò a splendere come prima. Il suo intimo però era completamente cambiata, non faceva più i suoi discorsetti alle scarpe e non volava più giù per le scale. La maternità aveva essenzialmente mutato il suo carattere. Lo scoiattolo era scomparso per sempre in lei. E approfittando di ogni momento libero andava a vedere il bambino e gli andava a dare il latte e lo fece battezzare, dandogli il nome di Alessandro. We'll be right back. E questo era Kira Kideshi con il brano Dark Optium. Ora si ripassa alla controinformazione con un testo rivendicativo che arriva da Manado in Indonesia, che parla di un attacco fatto dalla cospirazione internazionale per la vendetta FAI contro un'università. Leggiamo direttamente il testo rivendicativo. Attraverso il fuoco abbiamo inviato la nostra solidarietà diretta a quei compagni combattenti e detenuti che hanno resistito contro gli sfratti dello Stato in Pandang Raya, Makassar e Sud Sulawesi. Ci sentiamo profondamente uniti con quelle persone anche se non ci siamo mai visti, ma le vostre storie, il vostro spirito, il vostro coraggio ci hanno raggiunto qui che ci nascondiamo nel buio, aspettando il nostro momento per attaccare di nuovo i nemici. Abbiamo aspettato, discusso e ci siamo messi in discussione. Vogliamo portare la guerra urbana contro i nemici ad un livello successivo, esercitandoci per essere più violenti. Ma non potevamo aspettare a guardare tutta questa violenza da parte dello Stato contro le nostre sorelle in lotta. Non volevamo esprimere solo parole di solidarietà senza fare nulla quando affronti una guerra per difendere le proprie vite e le proprie case. Noi non siamo anarchici civili, noi siamo gli arrabbiati. E così domenica mattina 14 settembre 2014 abbiamo deciso di lanciare un attacco contro la proprietà dello Stato e abbiamo scelto la facoltà di scienze culturali Sam Ratulangi University come bersaglio. È stato un bersaglio facile per noi e se là fuori la gente si chiederà perché abbiamo attaccato questa università, non daremo una risposta. Abbiamo risposto prima, anni fa, quando abbiamo attaccato una scuola elementare in questa città. Niente più spiegazioni per gli spettatori o nemici. Giù le mani da Pandang Raya, Urban Guerrilla War, cospirazione internazionale per la vendetta, FAI Indonesia. E questo era il testo che arriva dall'Indonesia. C'è l'immagine anche della scuola che va a fuoco sul sito di radiazione, per chi vuole vedere la notizia. Giusto per l'appunto, oggi primo giorno di scuola in Italia, benvenuti a scuola. Ecco, qui non sono andate a fuoco le scuole. Qui non sono andate a fuoco le scuole, purtroppo. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono i Doli, non dico il nome perché è in croato. L'altra compagna, quella che venerdì sarà qui insieme a me a fare controinformazione, potrebbe pronunciarlo. Io non lo pronuncio perché c'è il rischio di fare proprio le cose. Poi vediamo. E allora, i Doli, e poi dopo con la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. Чисто и поросло. future. My boy, check out you. Passò un altro anno, Anghia era sempre al servizio nella stessa casa. Tale stato di cose sarebbe forse durato ancora a lungo se una nuova circostanza non fosse venuta improvvisamente a mutare il corso normale della vita di Anghia. Uno dei figli del funzionario, Griscia, poteva ormai considerarsi un uomo anche se frequentava ancora l'ultima classe di liceo, studiava poco e male e... non per le solite ragioni che impediscono ai giovani d'indole vivace ed irrequieta di applicarsi troppo allo studio, ma per pura e semplice infingardaggine. Da qualche tempo quel giovinastro, dalle mani rosse, dallo sguardo ebete, dai denti cariati, dimostrava però molto interesse per Anghia e così accostava continuamente la ragazza che a fatica riusciva a sventare le sue insidie. Un giorno la trovò in camera sua mentre rifaceva il letto, l'afferrò di dietro per la vita e si riversò con lei sul materasso. Anghia trattenne un grido che avrebbe fatto accorrere tutta la famiglia e sebbene Griscia fosse alto e abbastanza robusta, ella poté svincolarsi dalle sue braccia, ma l'ardente giovanotto si buttò su di lei quasi soffocandola. Macchie scure offuscarono la vista di Anghia, il suo naso sanguinava e il volto era pieno di lividi. Allora anche lei, spinta dall'istinto di conservazione, si mise a lottare disperatamente. Investì di colpi il signorino e lo buttò a terra, ma non ne riuscì di fuggire dalla stanza perché egli aveva chiuso la porta a chiave e a un certo momento Griscia staccò dalla parete in un attaccapanni e Anghia in un batter d'occhio si armò di un tavolino portafiori. Il baccano della camera da letto attirò l'attenzione dei familiari di Griscia, colpi violenti si udivano dalla porta, il giovane fu costretto ad aprirla e tutto graffiato e sporco del sangue di Anghia si precipitò fuori dalla stanza. «Mamma, guarda che cosa mi ha fatto quella ragazza!» urlò nascondendosi dietro sua madre. «Ibera! Volevi uccidere mio figlio, sgualdrina, stracciona, ladra! Chiamate la polizia! Ora, sì, ora te la farò vedere io!» Anghia sgusciò fuori dalla porta e corse giù nello scantinato dove si strinse al seno la sua creaturina e scoppiò in singhiozzi. Non volle più metter piede in quella casa, benché la padrona ricredutasi dopo un giudizio più spassionato sulla faccenda fosse ancora una volta disposta a riprenderla. La zia, eh sì, la zia, anche questa volta fece da intermediaria. «Anghia, domani tornerai a lavorare, non è accaduto nulla, in fin dei conti, su, vai al lavoro domani e mi incarico io di chiedere scusa alla signora». «Se chiederai delle scuse potrai anche andare tu stessa a lavorare in quella casa, ma io non ci tornerò», rispose lei. E dopo due settimane di ricerche, allora Anghia trovò un posto presso una fabbrica di sigarette, dove ben presto la sua graziosa figurina attirò l'attenzione del caporeparto. Questi era del parere che le ragazze dovessero dimostrargli la loro gratitudine per aver ottenuto l'impiego col dono di se stesse. Era ormai diventato una regola alla quale avevano dovuto sottomettersi tutte le ragazze più carine della fabbrica. Ma Anghia respinse con forza e con freddezza gli approcci del caporeparto. Ma questo non ebbe alcun risultato più che di eccitarlo sempre, sempre di più. Egli divenne addirittura aggressivo e Anghia gli fece capire l'inutilità delle sue insistenze e perciò venne licenziata per condotta immorale e scarso rendimento. Passavano le settimane e Anghia era sempre senza lavoro. La zia cominciava a brontolare contro la nipote rinfacciandole di mangiare il pane a UFO, benché Anghia non restasse mai con le mani in mano e facesse quasi tutto il lavoro della sua protettrice. E a questa piaceva cioncare e lo faceva spesso e volentieri, mentre anche a volte passava una giornata intera senza avere un boccone da mettere sotto i denti. Sentiva che le forze le venivano meno anche perché allattava. Sì, allattava lei stessa quel piccinino di Alessandro. E se si chinava per prendere qualcosa le si annebbiava la vista e non riusciva più a portare un secchio d'acqua dal pozzo senza doversi fermare più volte lungo la strada per riposarsi. Ma ciò che l'angustiava maggiormente era che anche il suo Olek non fosse nutrito abbastanza. Vendette per completare il suo nutrimento le poche cose che possedeva, ma anche queste ben presto si esaurirono. Allora la zia, considerando che fosse giunto il momento opportuno, propose alla ragazza di andare in pensione da una tedesca, Madame Emma, che era la maîtresse del più lussuoso bordello della città, a 5 rubli di tariffa, riservato esclusivamente agli ufficiali dell'esercito. E la aveva già procurato a Madame delle belle figliole ed era stata largamente compensata dei suoi servigi. Ora sperava di guadagnare bene impiegando presso di lei Angia, che certo non avrebbe avuto facilmente altre occasioni di portarle a casa del denaro. Angia non rispose nulla a questa proposta e la zia, credendo di non essere stata compresa, si mise a spiegarle come si stesse bene in quella pensione, che buoni cibi venissero serviti e quanti vestiti si ricevessero. In omaggio dalle ragazze, le quali avevano anche modo di divertirsi un mondo con i loro galanti e generosi cavalieri. Se non sarai un'oca, in un anno potrai mettere da parte 1000 rubli. Dopodiché potrai piantare la baracca e trovare ricca come sarai un uomo che sei disposto a sposarti. Se si sta così bene là, perché non ci vai tu stessa, zia? Allora chiese Angia. La vecchia allora non insistette. Sapeva che la fame sarebbe stata sua buona alleata e che, presto o tardi, avrebbe ridotto la ragazza all'obbedienza. E non sbagliò. Erano trascorse appena 2 settimane da questa conversazione che Angia, sentendo una notte che la zia si rivoltava nel letto senza riuscire a prender sonno, le chiese: «Ma zia, non dorme? No, che cosa vuoi? E come farei con Olek?» E allora la vecchia comprese immediatamente di che si trattava e rispose: «Lo lascerai con me? Con 8 rubli al mese vivrà come un principino. Non sarò certo io a fargli torto, perché in fondo, anche se è un bastardo, anche lui, sì, ha il nostro sangue nelle vene. Del resto potrai venirlo a trovare e così ti renderai conto tu stessa». E l'indomani la zia condusse anche da Madame Emma. E la ragazza si era messa un po' in ghingheri perché la zia le aveva detto che era necessario che la merce si presentasse nel miglior modo possibile. Angia piacque molto alla tedesca che, dopo averla esaminata con occhio esperto, fece di tutto per non lasciarsela sfuggire. La zia ricevette come compenso qualche decina di rubli e il giorno seguente Angia si trasferì come pensionante fissa nella casa di Emma, che infatti trattava abbastanza umanamente le sue ragazze e le sfruttava meno di quanto non facessero le maîtresse delle altre pensioni. E Angia fu oggetto di particolari attenzioni. Tutti sapevano che era un po' selvatica e cercavano di non urtare la sua suscettibilità introducendola a poco nel suo lavoro. Venne designata ospite di riguardo e non si presentò quasi mai nella sala comune. L'unica cosa che la padrona rimproverava ad Angia era di essere sempre triste, oltre al fatto che non beveva assieme agli ospiti né vino né vodka. Madame fece di tutto per avvicinare Angia alla sua favorita, la Pola d'Oro, che non solo era molto graziosa ma aveva anche un carattere sempre allegro. Tempo la giovane riuscì ad abituare anche dapprima ai vini dolci, poi anche alla vodka, e si sarebbe detto che la ragazza si fosse rassegnata alla propria sorte se nei suoi occhi non fosse stata sempre in agguato una strana inquietudine. Certo, era la più bella e anche la più giovane tra le pensionanti di Emma. La vestivano sempre come una scolaretta oppure da maschietto, con giubba e calzoni. Aveva molto successo, ma questo era poco durevole. Non aveva neppure uno di quegli ammiratori assidui che si attendono sempre, di cui si parla con le compagne, sai, il mio uomo mi ha promesso, bla bla bla. Attirava gli ospiti con la sua bellezza e la grazia dei movimenti, ma finiva per deluderli con la sua freddezza. Soffriva fisicamente e moralmente, ma Oleg Alessandro era ben curato perché Angie non badava spese per lui. Era contenta che il bambino si sviluppasse bene e avesse un aspetto florido. Ormai aveva compiuto 3 anni, camminava come un ometto e riusciva già a spiegarsi abbastanza bene. Angie attendeva con ansia il giorno in cui la zia veniva nella cucina della padrona una volta alla settimana, con Oleg sempre pulito e ben vestito. Era anche economa Angie e metteva via un po' di denaro. Presentiva che le sarebbe servito per il piccolo, voleva quindi metterne da parte il più possibile. Sul suo libretto, custodito da Madame, si trovava già la cospicua somma di 1000 rubli. Una sera verso la fine dell'estate, secondo anno del pensionamento di Angia, presso la tedesca, tutte le ragazze vennero chiamate nella sale. Era arrivato un gruppo di ufficiali ubriachi. Il pianoforte e il violino strimpellavano con brio una marcia militare, poi ebbero inizio le danze. Elsa, così veniva chiamata Angia in quel luogo, ebbe come sempre un grande successo e passò continuamente, sebbene controvoglia, dalle braccia di un cavaliere a quelle di un altro. Poco dopo giunsero anche quattro borghesi che pure dovevano aver alzato parecchio il gomito. Tra questi c'era un tipo molto spassoso che riuscì in poco tempo ad animare la compagnia e poi, sì, a tenerla allegra per tutta la serata. Si brindò all'esercito e a tutta la nazione polacca. Qualcuno pronunziò poi un discorso umoristico. Le ragazze venivano continuamente invitate a bere vodka che costava un rublo a bicchierino. I musicisti, invogliati dalla generosità degli ospiti, suonavano senza posa. L'unica che non si divertiva era Angia Elsa, che sorvegliava di nascosto con le sopracciglia aggrottate uno dei borghesi, nel quale aveva subito riconosciuto Riccardo. Il fatto che portasse i baffetti e non vestisse più da studente non lo cambiava molto. Evidentemente Angia non aveva risvegliato in lui alcun ricordo. Ella era stata nella sua vita un insignificante episodio, un amoruccio passeggero di quelli che Riccardo poteva contare a decine nel suo passato. E benché fosse stata senza dubbio la più devota, era stata anche la meno ingombrante per lui. E come avrebbe potuto rimanere impressa nella sua memoria? Il suo aspetto era così diverso da allora. Il suo elegante vestito di seta, le scarpette di vernice, le calze sottili e l'acconciatura dei capelli, oltre al fatto che era più robusta e più alta, non la lasciavano riconoscere facilmente, no? Non aveva più nulla della fanciulla macilenta, timida e malvestita che pure era piaciuta a Riccardo. Adesso era una donna elegante e piena di fascino, anche se una prostituta. A un certo momento Riccardo, che era un ballerino di classe, afferrò scherzosamente Angia per la vita e le disse: «Bella Elsa, il tuo fascino non mi è nuovo, mi ricorda qualcuno». Angia sentì un tuffo al cuore e impallidì. «E chi?» mormorò, sentendosi quasi venir meno. «Non lo so, forse un'attrice del cinema o del teatro, non riesco a ricordare», rispose svogliatamente il suo ex amante, biascicando un po' le parole. Angia si sentì venire le lacrime agli occhi, ma Riccardo non se ne accorse affatto e, lasciatela, si mise a ballare subito con un'altra ragazza, seguito dagli occhi ardenti di Angia. Intorno ad un grande tavolo formato da quattro più piccoli e pieno di bottiglie di panini imbottiti sedevano quelli che non ballavano. Angia si avvicinò al tenente, che prima era stato così allegro e ora, dopo aver ingerito un numero rilevante di bicchierini di vodka, si era incupito e girava intorno con uno sguardo assente. Riccardo sedette di fronte a lui, ignaro dell'interessamento che aveva suscitato in una delle ragazze. L'atmosfera della sala, man mano che gli ospiti bevevano e fumavano, diventava sempre più densa e greve. Uno dei borghesi si mise a cantare la Dubinuchka e, benché questa canzone fosse considerata quasi rivoluzionaria, anche gli ufficiali si unirono al coro, ma più che cantare era un urlare nel quale ognuno cercava di sopraffare con la sua voce quella degli altri. A un certo momento Riccardo andò al buffet e ne tornò con le mani piene di grosse pede che prese a lanciare alle ragazze. Angia afferrò al volto la sua la sua compagna, Pola d'Oro, seduta sulle ginocchia di quel tenente a cui la vodka aveva tolto tutto il buon umore, non fu altrettanto abile. La pera le sfuggì dalle mani e andò a colpire in pieno il volto del tenente. Questi, pallido d'ira, buttò giù dalle ginocchia la ragazza che andò a finire per terra e balzò in piedi. «Ti mi ha lanciato questa pira in faccia!» chiese con voce rauca, rivolgendosi agli astanti. Da prima nessuno comprese di che cosa si trattasse e tutti tacquero. «Ho chiesto, sì, chi mi ha fatto questo?» insistette l'ufficiale barcollando sulle gambe. Riccardo si alzò e disse: Vi presento le mie scuse. Sono io che ho lanciato la pera, ma nessuno ne ha colpa, perché la ragazza sì, voleva afferrarla e invece non c'è riuscita. Né lei né io, quindi, abbiamo voluto mancarvi di rispetto. Mettetevi dunque l'anima in pace. Che cosa? Urlò l'altro. Voi mi ordinate di mettermi l'anima in pace, voi che siete un farabutto. Ma cercate di ragionare, disse Riccardo. Ragionare, canaglia! L'ufficiale schiumava la bocca dalla rabbia e con un gesto rapido tolse dalla tasca posteriore dei calzoni una rivoltella e, retrocedendo di un passo, puntò l'arma, sì, nella direzione di Riccardo. Anghia, che aveva osservato la scena con le mani strette sul petto e il respiro mozzato, balzò in avanti e si trovò seduta sul tavolo con le spalle al suo amante e la faccia rivolta al tenente. Afferrò con la mano la canna. Non sparare, non sparare, Riccardo, il mio Riccardo, per l'amor di Dio, non sparare, gridò mentre il colpo partiva e le lacrime le scorrevano lungo le guance. Una macchia di sangue si imporporò il suo vestito. Alcuni ufficiali si buttarono sul divano strappandogli l'arma dalle mani. Anghia si accasciò sul pavimento e fu subito trasportata sul divano. Riccardo, Riccardo, ella chiamava con voce debole. Egli allora la riconobbe, nessuno da molto tempo lo chiamava Riccardo. Si avvicinò alla ragazza che gli aveva salvato la vita, pallido e sconvolto le prese la mano e le toccò il polso. Riccardo, caro, ho del denaro dalla padrona, prenditi cura, Olek, tuo figlio Riccardo. Egli non comprese quelle parole. Era stupito che Anghia fosse venuta a sapere che egli aveva avuto da Alcica un figlio che si chiamava Olek. Non sapeva che Anghia gli raccomandava. Sì, detto il bambino, va bene, disse, non occorre denaro, farò del mio meglio. Oh, Riccardo, tesoro, fa come ti ho detto, Riccardo. Pochi istanti dopo era morta. Sembrava felice che Riccardo avesse preso sotto la protezione Olek. Fu così che lo scoiattolo Anghia lasciò questo mondo per sempre e un'alba grigia e mesta faceva capolino dalle finestre. La zia di Anghia richiese a Madame il denaro, della cui esistenza era da molto tempo al corrente. Dapprima le parve di possedere un patrimonio e continuò a prendersi cura del figlio di Anghia, ma col passare del tempo le sue premure diminuirono sempre più, finché dopo un anno non ci pensò più affatto. Ho fame, zia! Strillava Olek. Taci, bastardo! Inveiva la vecchia. Non sono tua zia io! Sei un figlio di nessuno! Se crepassi una buona volta, peste maledetta! Sono tanti bambini che muoiono! Ma questo mostro non c'è pericolo che prenda il raffreddore! La zia vendette una dopo l'altra le cose che Anghia aveva comprato per il figlio. Prima fu la volta del lettino, poi un po' la volta se ne andarono i vestiti, le scarpe, la biancheria. Ben presto al ragazzo non rimase che un logoro abituccio. E vennero per Olek i giorni della fame. Giorni tanto più terribili in quanto egli non aveva più nessuno con cui lagnarsi, né d'altra parte riusciva a difendersi da sé. Le botte e le ingiurie continue lo trasformarono a poco in una bestiola spaurita che silenziosamente vigilava ogni mossa della zia, e quando questa gli buttava ogni tanto qualcosa da mangiare, spinta non dalla pietà ma dal timore che il ragazzo morisse, attirando sospetti dei vicini, egli ingoiava i bocconi quasi senza masticarli e senza quindi sentire il sapore del cibo. Lo sguardo del ragazzo divenne più acuto e penetrante, ma egli si muoveva malvolentieri e con lentezza. Il suo istinto gli suggeriva un'economia di forze ed egli ascoltava inconsciamente questi consigli. Il secondo inverno dopo la morte della madre fu particolarmente duro per Olek. Poi tornò la primavera, il ragazzo era molto denutrito e si reggeva a fatica sulle gambe. La zia attendeva con impazienza che morisse e gli lesinava sempre di più il cibo. Un giorno la vecchia si ubriacò e uscì dimenticandosi di chiudere Olek a chiave nella stanza. E il ragazzo ne approfittò per sgusciare fuori allo scantinato e, aggrappandosi alla ringhiera, prese a salire faticosamente i viscidi gradini di pietra. Quando raggiunse il cortile riuscì a stento a tenersi in piedi, tanto che fu abbagliato dal sole che da tanto tempo non vedeva. nascondendo il volto tra le mani, allora barcollò avanti e indietro. Il suo aspetto era miserevole. La testa rasata aveva una tinta bluastra ed era tutta coperta di lividure di croste. Il corpo pieno di foruncoli appariva tra i brandelli del vestito incredibilmente sudicio. Gli occhi erano rossi, le gambe e le braccia erano magrissime e su quel misero corpo brulicava una quantità di pidocchi. E in quel momento un giovane apprendista che lavorava dal calzolaio attraversò il cortile fischiettando un'arietta allegra, e quando i suoi occhi si incontrarono con quelli di quel bambino sparito, egli si indietreggiò inorridito sotto quello sguardo spiritato e quasi selvaggio. Poi strinse i pugni e si diresse verso Oleg. «Ti romperò le ossa, ti spaccherò il cranio!» Radunando le sue forze, Oleg si mise a fuggire e rotolò quasi giù per una scaletta di pietra che conduceva alle cantine. Là, in un angolo buio, si sottrasse sì al suo inseguitore. Non tentò neppure di raggiungere lo scantinato dove abitava con la zia, perché sapeva che non gli sarebbe stato facile aprire in fretta la porta, ma l'apprendista non lo rincorse e continuò per la sua strada riprendendo a fischiettare. Nella cantina di fronte alla strada occupata da loro c'era un'altra porta, dietro la quale abitava il guardiano notturno della segheria insieme a sua moglie. Entrambi erano vecchi. Oleg, sempre nascosto nel suo angolo buio, vide che la donna metteva fuori dalla porta un secchio di zuppa che aveva preparato per i cani. Strisciandosi lungo il muro, si avvicinò al recipiente e, scottandosi le dita, tirò fuori della broda dei brandelli di carne e, fuggito di nuovo nel suo nascondiglio, li divorò avidamente. Cancellò cautamente ogni traccia sul pavimento, trasse ancora qualcosa dal secchio e ritornò nella stanza della zia. Da quel giorno rubò sistematicamente tutto ciò che gli riusciva di rubare dal secchio dei cani. Giunse perfino a mettere un po' di cibo da parte, perché era accaduto che mentre si accingeva a compiere la sua impresa ne era stato impedito la presenza di qualcuno, e perciò quando riusciva a pescare dal secchio avanzava una parte di quella carne, di quel pane inzuppato riservati ai cani, mettendoli in una scatoletta di latta che nascondeva in un angolo della stanza. La zia si meravigliava che il bastardo, che secondo le sue previsioni avrebbe dovuto essere morto già da un pezzo, non solo fosse ancora in vita, ma sembrasse addirittura riprendersi. «Seme del diavolo!» ringhiava. «È come la gramigna che cresce in qualsiasi terreno!» E dopo alcuni mesi di pensione a spese dei cani, Oleg ritrovò le forze e la salute. Il gonfiore del viso, delle mani e dei piedi scomparve del tutto. Non aveva più né foruncoli né croste. Ai cani, non agli uomini. Doveva di essere ancora vivo. Ma egli allora non lo comprese, come non comprese di sottrarre alle povere bestie una parte della loro razione già molto scarsa. E col tempo Oleg quindi cominciò a evadere sempre più spesso allo scantinato. La zia non glielo impediva ed egli imparava a conoscere il mondo. Il suo interesse, prima che da qualsiasi altra cosa, venne attirato dall'immondezzaio dall'altro lato del cortile vicino al gabinetto. Era una vera fonte di ricchezza che Oleg seppe sfruttare razionalmente. Vi si trovavano croste di pane e scatole di conserva vuote, nelle quali si c'erano i resti di qualche leccornia, pezzi di salsiccia andata a male e ossa dalle quali succhiava il midollo. E tutto questo non era che una piccola parte dei tesori che Oleg portava via con sé, che nascondeva con grande astuzia nel cortile o nella stanza. Così viveva quella creatura umana, più disgraziata di un cucciolo, perché più inerme e più sensibile di fronte alla miseria. E così, sì, così Oleg lottava per la vita. È difficile dire quando Oleg diventò un ladro. Forse lo era già stato fin dai primi anni della sua vita, forse invece lo divenne quando incominciò a rubare ai cani il loro cibo. Delinquente l'aveva fatto la vita, ecco la verità. Il delitto fu all'inizio della sua vita l'unico mezzo per sussistere e più tardi l'unica professione. la peggiore e la più dura che esista. Non è il caso che lo seguiamo in tutti i luoghi nei quali egli vi accompagna il delitto, né in tutti gli scellerati covi attraverso i quali si trascinò. La collana delle sue esperienze e dei suoi dolori sarebbe troppo lunga da sgranare. Racconterò invece del suo amore, del suo vero amore, e come questo amore penetrò in modo arcano, come un filo spinato, nella sua carne viva, entrando di prepotenza nella sua sciagurata esistenza di ladro. Vi dirò anche quello che avrebbe potuto fare di questo amore e di quello che effettivamente ne fece. Riccardo, il conquistatore di cuore, aveva avuto un figlio da Anghia e uno dalla sua meravigliosa Acica. Per una strana coincidenza, ambedue ragazzi, che erano pressappoco della stessa età, ebbero lo stesso nome, Oleg Alessandro, ma le vite dei due fanciulli non ebbero nulla in comune. La stessa gravidanza di Anghia era stata per lei una fonte di sofferenze e di cruci, mentre quella di Alcica era stata accettata con gioia e si era atteso con impazienza che venisse al mondo l'erede delle due famiglie. Mentre nulla era stato trascurato per far scomparire Oleg dalla faccia della terra, il bambino di Alcica era stato oggetto delle più amorevoli cure. Mentre l'Oleg di Anghia aveva patito la fame, quello di Alcica si era spesso ammalato di indigestione. Il figlio di Anghia aveva rubato il cibo ai cani. All'altro Oleg i cani avevano portato via dalle mani dei bocconi succulenti. A insegnare la vita al povero Oleg erano stati i ladri, la strada e la galera. Oleg, il ricco, aveva studiato nei migliori istituti sotto la vigilanza dei più noti professori e pedagoghi. Uno di essi entrò nella vita armato di diplomi, di scienza, di favori, come una persona stimata che godeva di un'ottima posizione sociale. L'altro invece trascinò pesantemente il proprio destino, colmo di esperienze durissime, guidato dal suo solo istinto. L'uno procedette su una via facile e piana, l'altro dovette farsi largo col grimaldello e procurarsi il cibo per mezzo del piede di porco. A uno la società conferì il titolo di cittadino onesto, l'altro dovette conquistarsi da sé la qualifica di furbo e di dritto. Destroy and disgrace. Your mind has been taken. E ora riprendiamo per questa diretta l'ultima parte di Na 013. Eravamo rimasti alla morte di Alni e i suoi compagni che lo preservavano dal ritrovamento e lo nascondevano tra alcuni cespugli. Mark prende per mano Ashlyn e la fa alzare per riprendere il cammino. Aga invece prende lo zaino con le mappe di Alni e prima di seguire gli altri due si ferma a guardare con uno sguardo pieno di odio i due insect. Tira l'ennesimo calcio ad uno dei due esseri e si gira per riprendere il cammino. Tempo di rigirarsi che sente un piccolo movimento alle sue spalle. Con una specie di colpo di coda fatta col pungiglione, l'insect ha un ultimo scatto di vita contro Aki. Il refrattarius sente quasi strisciare sul suo volto l'arma letale dell'insetto gigante. Tira la pistola dalla tasca del giubbotto e scarica l'intero caricatore contro i due insect. Mark ed Ashlyn, che sono già di qualche metro avanti, corrono verso Aki per assicurarsi che fosse tutto ok. Meno male che gli ho tirato un ultimo calcio, altrimenti ci prendeva le spalle sta vespa del cazzo. Andiamo su Aki, leviamoci di culo alla svelta da qui e raggiungiamo il tunnel il prima possibile. I tre riprendono il cammino, non prima di aver dato un ultimo sguardo al rovo dove giace Alni. Sono minuti di silenzio interrotti da qualche singhiozzo, quelli che trascorrono prima di arrivare al tunnel. Ad aspettarli c'è solo uno dei tre gruppi formato da Tin, Coram e Rose. Dell'altro gruppo, quello che doveva percorrere il centro storico, non si hanno notizie e forse sarà rimasto bloccato nella rivolta. Nemmeno la presenza di Valerie riesce a strappare un sorriso ad Aghi, Mark ed Ashlyn. Il refrattarius, evaso da Carcelia, si era immediatamente rifugiato nel tunnel sperando che prima o poi qualche suo compagno passasse da quelle parti. Atin dà un rapido sguardo ai suoi tre compagni e guardando negli occhi arrossati e bagnati di Ashlyn. Manca qualcuno? Alni dov'è? La refrattarius non riceve risposta né dalla bambina di fuoco e tantomeno da Mark ed Aki. Si può sapere cosa è successo ad Alni? Con una voce sempre più rotta dal pianto, Atin, che forse ha intuito tutto, riformula la domanda ai tre. Lo hanno ammazzato quei figli di puttana. Mark era rimasto quello più lucido nei momenti successivi alla morte di Alni e sta per avere un crollo psicologico. Poi il refrattarius si piega sulle gambe portandosi le mani al viso. Aki tenta di rialzarlo per il gomito, ma dopo un paio di tentativi lascia sfogare il suo amico. Atin e Rose si abbracciano e dopo qualche istante coinvolgono nel loro braccio Ashlyn. Coram, che per l'età ne ha già viste tante di queste scene, cerca di ricevere attenzione, che per il momento gli è data solo da Valerie, che avrebbe preferito incontrare i suoi compagni in un'occasione sicuramente più bella. Ragazzi, se facciamo così abbiamo perso in partenza, aggiunge Coram, con un tono molto basso. La rivolta è rivolta e non tutti potranno godersela fino in fondo. Ci sarà chi avrà forza e fortuna di vedere la fine del tunnel e chi non potrà mai affacciarsi oltre. Se ci fermiamo davanti ad ogni morte, seppelliremo anche noi. Ha ragione Coram, compagni. Valerie fa eco alle parole di Coram. Ha ragione, perché sono appena reduci da un tunnel e mentre molti ci accingevamo a mettere il naso fuori, tanti altri hanno avuto la sfortuna di non uscire mai vivi da quella fogna. Era dolorosa abbandonare i propri compagni che morivano nel corso della rivolta, ma qualcuno doveva pur salvarsi, qualcuno doveva pur violentare quella fogna di carcere, qualcuno doveva pur farla pagare a quel figlio di puttana di Lerit. Dopo attimi di silenzio, tutto il gruppo di refrattari si siede in cerchio, non prima che gli ultimi arrivati, e cioè Aki, Mark ed Ashlyn, abbiano salutato con un abbraccio fortissimo Valerie. Scusa Valerie, il sangue agli occhi per la morte di Alni non ci aveva permesso di vedere che c'eri anche tu qui, e non sai quanto sono felice, purtroppo, quanto lo sarebbe stato Alni, che per anni ha sempre avuto come uno dei suoi obiettivi principali la tua liberazione. Aki, dopo averlo abbracciato, è appoggiato con l'avambraccio sulla spalla di Valerie. Io sono Ashlyn invece, non ci siamo mai conosciuti prima, perché eri già stato sequestrato quando ho iniziato a frequentare prima Alni e poi tutti i compagni. Ciao Ashlyn, bambina di fuoco, wow! Conosci il significato del mio nome? Sì, perché ho sempre avuto un'attrazione verso l'America Latina, un amore che non so da cosa nasce, ma ho sempre sentito come se quella terra mi chiamasse a sé. Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscere bene la mia terra, sono arrivata qui perché ero qui che ero piccolissima. Immagino, a guardarti mi sa che la tua età combacia con l'inizio delle dittature in Sud America, Cile o Argentina, Chelen. Valerie arriva subito al sodo facendo una domanda più che diretta alla ragazza. Argentina, e comunque sì, è quella l'età. I due sono scappati in Italia, aiutati da politici di questo paese, come del resto è capitato anche a qualche altro argentino, scommetto. Valerie, con il suo modo provocante, riesce a far irritare Chelen. Scommetti male, e comunque chi cazzo ti credi di essere, né? I miei genitori non sono mai scappati, purtroppo. Hijo de puta. Cazzo, Valerie, questa è la giusta prima. È giusta la prima sera che siamo insieme e già rompi le ovaie, Atin. Abbraccia forte a Chelen mentre urla contro i refrattaris. Calma, calma, stavo solo chiedendo la tipica solidarietà femminile. Che palle, oh! Solidarietà femminile, un par di palle, aggiunge Rosa stizzita. Abbiamo finito di piangere per anni ed ora vogliamo scannarci per una provocazione del cazzo fatta da questo rompicoglioni. Aki, con un tono molto più alto degli altri che litigavano, riesce ad azzittire tutti. Mark, per favore, passami la vodka dallo zaino, va. Così si piange, si provoca, si litiga e come rimedio ci alcolizziamo. Almeno potremo trovarci la scusa che sono i soliti discorsi dal bar, aggiunge Mark in modo molto ironico che provoca le rise generali. Scusami Chelen, è che io sono un po' stronzo con le persone che non conosco e quindi le metto subito alla prova con il mio carattere di merda. Di niente Valerie, e comunque sono figlia di Desaparecidos. Questa affermazione di Chelen lascia di stucco Valerie che dopo qualche istante, con le mani giunte come se pregasse, chiede scusa alla ragazza. Amen. Ed ora scambiatevi il segno di pace che dopo distribuirò la vodka tra voi perché non abbiamo il vino. La battuta di Aki, riferita al gesto di Valerie, è seguita dalle rise generali. Seppellisce definitivamente ogni discussione e incomprensione. Quindi ci siamo? Con un mezzo sorriso esclama Coram. Sì, sì, ci siamo. Che si mangia? Aggiunge Marco con un tono sarcastico. Si mangia quello che da sempre si è scritto di averne tanta fame. Rivolta al sugo di topo, ribatte Valerie. Sì, ma facendo attenzione di non essere assaliti dalle vespe mentre la cuciniamo, risponde Aki. Nonostante la morte di Aki e la mancanza di notizie dell'altro gruppo di refrattarius ancora non arrivati al tunnel, nonostante la tardissima ora, tra il gruppo sembra esserci veramente una bella atmosfera. Un'atmosfera rilassata, ma anche piena di rabbia. Tutti gli ingredienti per affrontare con determinazione e forza quella rivolta generale, quell'insurrezione tanto inseguita a colpi di dinamite e polvere nera da parte di Alni e qualcun altro e con tanta teoria da parte di altri. Ora teoria e pratica dovranno fondersi tra loro perché i binari per sempre separati sono arrivati ad uno scambio e perché a poche centinaia di metri da quel tunnel la brace della rivolta è già pronta e calda e c'è solo bisogno di alimentare il fuoco con altri carboni ardenti. I refrattarius si armano fino ai denti, ognuno aggiunge dettagli fondamentali alla propria armatura per renderla resistente ai proiettili e alle armi contundenti. Nel tunnel ci sono molti caschi che anni prima venivano utilizzati per gli scontri nei cortei. Ognuno, per passatempo, si personalizza il proprio casco. C'è chi scriva sopra una frase di odio contro le autorità e chi ci disegna qualche simbolo anti-autoritario. A Chelen il suo lo rende ancora più particolare. Come da sempre, sul suo casco, la ragazza argentina monta un paio di cuffie per ascoltare musica nei momenti di tranquillità, ma soprattutto ascoltare e comunicare attraverso un microfono agganciato al talkie-walkie con i suoi compagni, avendo le mani libere durante gli scontri. Infine, userà il foulard rosso a macchie nere di sua madre, imbevuto di un farmaco che le permetterà di non respirare i gas lacrimogeni. Marcheraki, come sul Vesuvio, finito il proprio bagaglio armato, prendono la bottiglia di vodka e le sigarette e si vanno a sedere quasi all'inizio del tunnel. Di fronte a loro la natura fatta di boschi e campagne. Sopra le loro teste la grande luna rossa, piena e quasi romanticamente come in un vecchissimo libro di contrabbandiere sul confine russo-polacco, l'orsa maggiore regna sovrana come adagiata su un infinito manto nero con la punta del carro in direzione del centro di NA 013. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. musica.